perché lunedì è un giorno di... Che cosa stiamo a fare qui? Vabbè, si lavora. Che è lunedì. Si lavora di lunedì. Dal lunedì al venerdì. Lunedì. È un giorno di... Che cosa stiamo a fare qui? Fai domande retoriche. Che non è neanche venerdì. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. Oggi lunedì dovremmo essere a lutto. Poi addirittura tutti quanti, a lutto, ma vabbè, dai. Dopo i fasti del venerdì. Lunedì è un po' come la quaresima. Ah, infatti, guarda, siamo in piena quaresima. Infatti. Mi sembra che sia la quaresima, sì. Il periodo tra carnevale e Pasqua si chiami quaresima. Sì, vabbè, comunque non sono in lutto, tranquilli, perché anche se è lunedì e anche se è nel periodo. Questo è a perché anche se è lunedì e anche se siamo nel periodo della quaresima o di quaresima, non sono in lutto. E sai perché? No. Perché? Sei ignorante. Sei ignorante. Cosa c'entra, scusa? Niente, niente. Infatti non volevo dire che... Sei ignorante. Sei ignorante. Però l'hai detto due volte. No, non l'ho detto io, l'ha detto la voce dell'ignoranza. Vabbè, in persona. Così, mica. Comunque così io volevo dire che non sono a lutto, perché sta arrivando la primavera. Vabbè, ma grazie. Le printemps. Grazie per l'aggiornamento cronologico. Non Che si anche dice, per l'Italia, Drago, le cose andranno sempre meglio. Via via che ci allontaniamo da questo inverno buio e che ci addentriamo a piccoli passi nella primavera. A me sembra che ci aspetti una primavera un po' calda. Appunto, ma, calda. Ma non calda perché c'è il sole, calda perché c'è il sindacato in subbuglio per le riforme del lavoro, la Val di Susa in subbuglio per la TAV o per il TAV, non so, le categorie in subbuglio per le liberalizzazioni, tutti il in sindacato subbuglio. Più che altro è in subbuglio per Marchionne, che tra l'altro è il tuo ma libro. Non è vero, il vero subbuglio è per l'articolo 18, altro che Marchionne. Va bene, anche allora diciamo che se la giocano Marchionne e gli articolo 18 sono chi? Gli articolo 18, ma l'hai detto tu prima. Dado, dudo, dado, è l'articolo 18, siamo qua, è andata. Sarebbero gli articolo 18 questi. Sì, tipo gli articolo 31. Però sembrano africani perché parlano palatale, poi parlano tutto così. 18-31 sono 13 di differenza. Comunque questo non è neanche un pezzo rap. No. Ma cos'è? Ma niente, lasciamo perdere. Adesso che è morto. Tutti a vedere i video di Lucio Dalla su YouTube. E purtroppo YouTube è adesso pieno che cosa? Di quei video. Ah, adesso che è morto. Tutti a vedere i video di Lucio Dalla su YouTube, no? Tutti. E purtroppo YouTube è pieno di video fatti dai fan. Quelli che hanno l'audio originale, le immagini scelte, montate dai fan. Quei video che seguono con le immagini il testo, letteralmente, con didascalica, quelli, precisione. Ecco, sì, esatto, non si possono vedere. Si possono vedere. Meglio quelli con l'immagine fissa. Parole molto sante. Meglio. Ecco, però devo dire che c'è un'idiozia quasi sublime in certi video di fans. Insomma. Sì, idiozia sicuro, sublime non so. Ma cos'è? Sì, dai, ho visto. Ho visto il video di Futura, per esempio, in cui c'erano i russi e gli americani, le stelle, guida tu che sono stanco, dove sono le tue mani, tutto ridotto a icone ovvie, a volte tirate per i capelli, però lo stesso ovvie, capito? Cioè, ma scusa, russi e gli americani, che c'erano? Cioè, Reagan, Gorbaciov, Reagan, certo, perché anche sì, all'epoca, hai sono capito, contestualizzati, ma perché scusa i fan del Bambino Alberto invece non fanno dei video così? Con le canzoni del Bambino Alberto? Ma no, dai, bastano quelli di Dalla, di Gregorio. Dai, io sarei curioso di vedere cosa riescono a fare con non so, le canzoni tipo Se per voi non c'è problema. Lampascione. Lampascione. Vabbè, ma se stavamo dicendo quanto sono idioti certi video, scusa. Ma anche sublimi, no? L'hai detto tu. Ma io dicevo tanto per dire, per fare un blocco. Vabbè, così impari a dire tanto per dire, dai. Allora, avete capito? Videomaker all'ascolto. Quali videomaker? Provate a fare il video idiota di un pezzo del Bambino Alberto. Il più idiota vince un weekend. Venerdì, lunedì. Con il Bambino Alberto, no, precisavo sul weekend. Lunedì. Altro weekend. Che weekend. Vabbè, lungo, weekend lungo. Le weekend prolongé. E ora, bambini, ricreazione. Iori, però, ho capito tutto il pathos, però la scena della doccia la togliamo, no? Dai! piazza? Facciamo qualcosa di... lo faccia via. Facciamo qualcosa di più romantico, poi cioè parole un po' più... Ma io l'ho immaginato, ho scritto solo... No, ho capito quello, cioè... ma lasciamo stare me, i tuoi sogni, no? Abbiamo preso spunto, fai una cosa romantica, no? No, no, Alberto, ho dedicato una canzone, tutta ogni singola frase è dedicata a te. Lasciami fare, Alberto, scusa. Quindi lascia, allora, doccia, cioè, lascia... tu quasi è come se mi dici a me non ti innamorare di quella lì. Ma che vuoi? No, quella chiama, cosa innamorare? Vabbè, no, ma cosa c'è? Allora, vabbè, niente modo di dire, poi le parole diventano pietre. Una parte fa così. Tu mi fai chiagnere, sto troppo male quando non ci sei tu, mi manca l'aria. Alberto, ecco quello che volevo sapere. È sempre a me alla fine. Io speravo che magari ci fosse la sta cantando Alberto. Eh sì, è già la canta, è quello, capito? E allora? Però a questo punto che facciamo? Noi facciamo la canzone gay, no? Ancora? Ma questo è, perché è già un tormentone estivo, perché Gildo sembra quello che sembra, che poi è, ma c'è il naso per il tormentone dell'estate. Quindi mettiamo a punto la riunione, canzone, bisogna completarla. Sì. Prossima volta che ci vediamo, prossima riunione, si fa la canzone. Ormai sappiamo che tu scrivi quello che scrivi sapendo che sei cantante gay, l'icona gay, no? No, oh, gay. L'icona di gay è come dire un... Cioè, è l'autore che ha scritto una canzone per l'amico gay. Ma lui non lo dice, però lo è, diventi un'icona di gay. No, non no. Non puoi spiegare tutto. No, gay. Beh, non voglio. Allora, senti, canta invece di parlare. Allora, canta, vai, canta. Voglio bene al bene. Sì, ma più pathos, più pathos. Nel senso... più femminile, nel senso più nobile del termine. Cioè, non devi sculettare. E voglio stringere. Stop. Avete capito, questa va benissimo. Poi la roba del bene, vediamo, e qui è oltraggio al pudore diventano. Prima di uscire la canzone siamo già denunciati. E poi scriviamo il disco in galera. Poi dammi cazzo, veramente. Io mi faccio mettere nella zona dei minori, non mica andiamo insieme ai carcerati, quelli adulti. Poi ci separeranno, no? Ma sai quante idee ci vengono, là? Cioè, comincio a pensare che dite vero, se già ti vengono fuori dal carcere. Allora, c'è un detto che dice: chi galera non prova, libertà non apprezza. Ciao ragazzi! Ciao Ioris! E non c'è! Come non c'è? E dov'è? È a casa, malato! No! E io come faccio? No, che sto a fare qua? Vabbè, un momento, sì. Mi sembra un carcere. Questo asilo è vuoto senza di te. Sentimentale. Non riesco a vivere. Cos'è? La nostalgia. Quando fai ridere. Ma chi? Tutte le volte che mi parli di me. Aspetto il giorno per vederti. Mamma mia, proprio. E dirti che Alberto deve essere contento. Quando giocavamo nel cortile. Sì, ma... e ci inseguivamo. Ma lui è morto, no? La merenda, a scuola. Sì, ma è domani. Ma è finito tutto questo. Ma domani... La solitudine mi fa più male di uno schiaffo, lo sai. Che vita inutile. Ma sai perché sono meridionale. Vabbè, ma capo, non puoi dire queste cose. Ma dove sei? Sì. So Alberto come la prenderà. Si spacca il cuore se qui non ci sei tu. E vieni da piangere, fratello. La chitarra bellissima. Voglio bene a te. lunedì. Hai capito? Non fraintendere. Io non ho frainteso, anche tu non fraintendere. Non fraintendiamoci. Ecco. E ci vediamo domani, no?